stazione Natalino. Uia! Sono, Asco, dov'è che ci possiamo vedere? In Corso Trinità, vicino al tabacchino. Allora vengo con la macchina lì e poi cerco il posteggio. Ok, io sono lì intanto. Adesso sono andato a comprarmi quel trasellatore. Va tu bene. Vabbè, dai, ci vediamo lì, ci vediamo. Ah, paraggia, sono qui io. Tore, ci sei? Tore, ci sei? C'è qualcuno qua sul 10? Attenzione, Tore. Sì, dimmi, chi è? Avanti. Tore, Natalino so. Ma cosa d'ora, ma che bai sembri a tu da mangiare un ghiaccio, e bai Natalino. Chi sei, Emanuele? Eia. Cava. No, stavo cercando attore perché avevamo appuntamento, capito? Però non si vedi, boh. Sì, già vi ho sentito quando c'era anche Tore che aveva fatto un appuntamento, stavo ascoltando. Cappa, come ti arrivo lì? Cazzo, 9.40, esci bene comunque, anche la modulazione è perfetta, bella amplificata. Ma sempre lì ce l'hai io, Natale, l'antenna. E allora, dove vuoi che ce l'abbia? Sempre lì è. Purtroppo devo avere questo apparecchio omologato perché disturbo. Ma qual è? Qual è che aveva messo Luca? Luca non mi ha messo niente a me. Io pensavo che ti aveva bocca Luca, che avevi un'antenna che ti aveva fatto Luca, boh, così sapevo. Ah, me la doveva fare e poi non si è più fatto sentire, boh. Boh, non lo so. Adesso che antenna c'hai su? Nella... dove ce l'hai? Che antenna è? Una Energy. Andava, dai. No, comunque sto uscendo bene, tranquillo. La modulazione è perfetta. Meglio così. Antonia, Luca hai sentito? No, negativo. Vabbè, cazzo, lo sto chiamando e non risponde. Vabbè, rimango in quel rixio, dai. Alle prossime. Sì, a Natale, dai, ci sentiamo. Io lo stesso dovrei metterla. Adesso un'altra antenna, vediamo un po'. Se riesco a salire su, vediamo. Se no, si rabbia le luci. Oh, già stai uscendo bene anche tu. Ma perché non hai antenna? Ma non hai antenna? Pronto? Sono riponto. Dimmi qua, non ti sei, no, non era che c'era la radio, dimmi. Ho detto perché non hai antenna, casino per 20 qua. Ah, ma sono a casa, no, qua. Sono a casa da un amico. Io adesso sto... ce l'ho anche a casa, però sono in ascolto, posso stare, capito? Non è un'antenna data in trasmissione. Ho trovato quella, ma se ho quella solo per ascoltare. Adesso appena riesco la metto, capito? E mi faccio sentire anche io. Ehi, io sono il segnale, è quello più alto di tutti, assieme a quello di Toro. Saluto, va bene. Ciao Luca, sei parito oggi, ma ti appuntamento anche a me. A te ti dà l'appuntamento a Tore e non ti rispondi. A me ma l'appuntamento a Luca, non rispondi. Vabbè dai, rimango in ascolto, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Attento Luca. Tore, ci sei? Natalino! Attenzione Tore, ci sei? Eia! Ma io sono venuto lì, corso B come hai detto! No, corso Trinità, per forza no! Vabbè, facciamo un altro momento, dai, lascia perdere! Ti farò avere anche il numero di telefono mio! Tu lo puoi telefonare a Luca Poddighe! anche Luca c'ha il mio numero. Luca Del Monte? Sì, se lo posso telefonare, me lo faccio dare da lui. Sì, signora. Sì, ok, quando ci possiamo vedere? Non so, dimmelo tu. Canto di Biazzi, chi si libera a tempo bello su Vemera, by demo, sa cosa. Tanto se non funziona, la poi mi ne compare giù un'altra e mi dà zara nei burri di driver, penso. Adesso vediamo, va. Mi si dispiace, ho avuto un inconveniente con i... ho avuto un inconveniente lì, c'era l'incidente, sono rimasto fermo un quarto d'ora, sono rimasto fermo perché sono passato salendo su all'agraria e sono rimasto fermo un quarto d'ora. Io ero giù aspettandoti. Io sono, tu come arrivi al tabacchino di Corso Trinità, che non è più dove era prima, adesso è dalla parte mia, è dalla parte opposta. Dopo la fermata del tranche, subito dopo il tabacchino che lo vedi, io sono il vicolo dopo il tabacchino. Poi mi già vedi l'antenna come imbuchi il vicolo, che è la prima casa, a sinistra. Vabbè, rimane a destra o a sinistra il vicolo? Allora, se vieni da Corso Trinità rimane a destra. Scendendo dal mercato rimane a destra? Sì, signore. È quello dopo il tabacchino. Perché il tabacchino l'hanno fatto a destra adesso. Prima era a sinistra, ti ricordi che c'era il tabacchino alla sinistra, adesso è a destra, subito dopo il tabacchino c'è il mio vicolo. Io sono passato lì, sono passato dritto, perché avevo capito quello di Corso Vico, non ho compreso una cosa, mi è entrato il Corso Vico a me, andavo là, e ci vediamo un altro momento, da un momento libero. Io ti chiamo a Luca e me lo faccio dare. Poi già glielo dico io a Luca a dartelo, non c'è problema. Ehi, ok, me lo faccio dare più tardi, lo chiamo e me lo faccio dare. E almeno ci possiamo sentire per telefono. C'era il posto per la macchina e tutto. C'era. Due bosteggi vera nel Maridugno. Ma diventare un vicolo? No, nella piazzetta che c'è sulla sinistra c'era il primo posteggio che era libero. C'ero 2 euro in chiva esistendo. E per non avere il numero di telefono, a chi se no se la mi telefonati e subito avevamo il risolto. Sì, infatti è così. Me la regheni rubortate, me la regheni. Ma la giudassa di sta. Vabbè da. Vuol dire che ci troviamo un altro momento, te lo faccio sapere e poi mi dici sì o no. Eia, no problema, non ti preoccupare, tanto non è una cosa urgente, no. Se paghi se non ne trovo un burro. Andave. E allora, casomai vi lo dimmo, se no si nabizza. Che di chi sono andave? Oh Giulia, certo che andiamo, bobo. No, ci compro se qualcosa mi sei entrato il corso qui con me. Certo, boh. E anche mi sei andato. Ma sono passato anche lì, sono passato. Adesso sono passato dritto in Chivi. Andave. Vabbè, ce n'è una cosa urgentissima, ma tutto in caso riusciamo a trovarlo. Prova a entrare nel computer a vedere se trovi, devi andare in cosa, aspetta, semmai se mi dai la sigla di quel coso lì, lo cerco. Modello non ce n'è, è quello che ti frega, perché non sai che modello è. Ti ho detto cosa c'è scritto lì. Mandami cosa c'è scritto, che provo io dal computer qua. Allora, c'è scritto DAB più FM più DVB trattino T 934. dimmi la sigla per ieri. Dimmi la prima sigla. Allora, Delta Alfa Bravo più Foxtrot Mike più Delta Victor Bravo trattino Tango. Onda da fa, la dissolaggio gruppiato, tutto lunga, troppo in fretta. Delta Alfa Bravo più Foxtrot Mike più Delta Victor Bravo trattino Tango, fine. Allora, Delta Postro poi no, Delta Alfa Bravo, Delta Alfa Bravo Dab più Foxtrot Mike più Delta Victor Bravo trattino Tango. E alla fine non ho... ho messo Mike. DVB Delta Victor Bravo trattino Tango. Ok, da, se provo a cercarlo. Prova a vedere se ci riesce a trovare i driver di questo. Va bene. C'era un fischio sotto. Quello chi è? Per viaggio a Fruscià, vabbè, andiamo per così. Ci sentiamo Natali. Ciao To. Luca, ci sei? Prova, prova, ora. E beh, Luca. E beh, Natali. E tu? A Rusaghi, sul padrono di ragazza, onde di Shuibu, me ne può far cavare antenne, TV, me. Allora non so con di cazzo, via fammi. Scusa un attimo, ma tu nel tetto non puoi salire nel tu, dove sei tu? Non c'è un tetto lì. Sì, Francesca già mi fa salire, però io ho il problema alla gamba, come cazzo faccio lui? Io non vi posso stare in un'altra gabiciuria. Olio c'è. Cazzo casino. È un casino, gà. È da vedere com'è quel tetto, se è facile da salire, com'è? Oh, tu apri un abbaino che c'ha questa qui, esci da lì, e c'è un torrino lì, basta piazzare due tasselli, vado a comprare il palo da coso, da, come si chiama, da fusaro, e gli metto il palo nuovo, perché il palo non è mio, che me l'aveva piazzate le antenne, un inquilino di quello lì. Adesso dal tecnico lui me l'ha fatto vedere. Perché ha già messo la parabolica. L'ho vista adesso. Vedrà cosa riporti a Ghissu. Lui televisione non ne vedrà mai più. A Besumio, ma manco le scopposte più uovini. Si è due accendenti rudenni con la televisione. L'ha già chiamato. Evidentemente. Gli hanno detto di farti aggiustare le antenne se intervenivano loro contravvenzionari da Ricci. Ma le antenne tue buone sono. Come? Le antenne tue sono buone. Certo, sono nuove nuove, io non disturbo neanche parlando al baracchino le mie antenne. Ah, io sto per sapere, capito? Vedi un po', organizzati, ma poi mi fai sapere, magari faccio un salto io. Vabbè Luca, ti faccio sapere, lunedì me le vuole far togliere le antenne, non c'è problema. Va 4x4 è stati già, di staffa e palo. E compro le due staffe e il palo da fusare. E le antenne e l'amplificatore che c'è attaccato. Le attacchiamo lì. Sì, le staffe, ma ti vuoi risparmiare, ma da Brico me ne atta lì, cosa da fusare? Da Brico me spendi molto, molto meno. Vedi un po' le staffe quale prendere, sai quali sono le tue? Le sue sai come sono? Quelle di quelle lunga tassello. Io non ne ho staffe, bisogna piazzarle nuove. Quindi posso prendere qualsiasi tipo di staffe. Comunque da bricome, non da fusare troppo caro. Poi vedi tu. Se parli tu, io non posso parlare, perché ti senti più tu che io. E va bene, se non c'è bisogno, non c'è bisogno, se c'è bisogno, fermo così. Azzo, Alicia, si buono in mezzo. Carino, vai da piccolo, non c'è da fusare, fusare è troppo caro. Un pezzo di pausa qua ti paga, tu ti prendi quello 4 metri, sarà sollevi un po'. Se salgo mi avrei anche sollevato un'altra nel baracchino. E come faccio a sollevarla? A meno che non metto le staffe in quel torrino e la mettiamo sopra il tetto mio, l'antenna. Tanto è una stronzata a metterla. Si sfila e si abbona. Però vivo nei assi sciaffi. Organizzati bene, organizzati a fare tutto e poi si fa lavoro. Poi dovrei allungare anche il cavo, Cavo per il baracchino ne ho. Poi c'è un altro rotolo di 213, al limite di non arrivi, bongo un barilotto e le allungo 29, e sai vivo. Non ve n'è problema, Baghisso. Per la televisione problema non ce n'è, perché il cavo è lunghissimo, perché tu devi pensare che è nell'altro palazzo. Ho capito. Aiutami. Chiamati di balle. Qualcuno arriva la mia già via giù, mia. Qualcuno ci ha provato a agganciarsi alla mia antenna, infatti ho messo tutto un isolante, bene, chiusa bene. Ho riprovato ad attaccarsi all'antenna mia. Lo so che succede. Le mie sono nuove, sono di quelle proprio per il digitale terrestre. Sono di questa non vedi di nà. Avevo pagato un bel di nà per i santennimi. E infatti sono una bomba, figliano tutti i ganari. Sono due antenne più l'amplificatore. L'alimentatore ce l'ho qua. Ah, l'amplificatore c'è allora. Anche io ho l'amplificatore, allora se tu togli l'amplificatore non si vede rusignari i nobili. Perché si è coperto da un po' di cose. Vabbè. Sì, allora su non è il miscelatore ma è l'amplificatore. Ho capito, quello a 12 volt. E allora? Se io ne stacco il cavo dall'amplificatore sparisce il segnale e non disturbo nulla mio. Io parlo al baracchino, non disturbo un cazzo, cioè, la televisione mia. Immagino, però sono giramenti di balle. E giramenti di balle solo sono. Ma se non vi viene a scopposto gioco propenso a punire un beduchilo a battino, che così un cazzo ne vedi in televisione, Eddie. Ma lascia tutti i dini. Abbiamo preso proprio correnti, ma aspetta un secondo e arrivo su. Io già sono qui.